Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Il rispetto del territorio passa attraverso anche il fatto di non costruire abusivamente in zone dove non si può costruire. Il segnale che lo Stato dà è mai più condoni edilizi, perché i condoni edilizi pongono il cittadino nella condizione di poter dire beh, adesso lo faccio, poi vedremo. Questo non si può più fare. È chiaro, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, questo non si può più fare, mai più condoni edilizi, parola del ministro dell'Ambiente Galletti, che oggi era agli Stati Generali per la lotta al dissesto idrologico e ha fatto questa promessa che speriamo non sia puntualmente disattesa come succede da decenni in Italia, ed è proprio la causa, poi una delle cause principali di tutto quello che succede, che sta succedendo per esempio ancora in Liguria, ancora oggi, ancora in queste ore. Parleremo di quello, ma parleremo soprattutto di politica anche questa sera, parleremo poi di economia, visto che di nuovo l'Unione Europea ci mette nel suo mirino e ci bacchetta per dei... diciamo mancanza di concretezza, possiamo definirla così al momento. Ne parleremo, dicevo, anche di politica, perché non si capisce bene come stiano andando i rapporti tra Berlusconi e Renzi, il famoso patto del Nazareno, se Renzi si sta girando dall'altra parte verso la maggioranza e i piccoli partiti che la compongono. Voi che direzione preferireste prendesse Renzi, Presidente del Consiglio, per fare le riforme? Continui andare nella direzione del patto del Nazareno con Berlusconi, oppure che lasci Berlusconi da un lato e continui con la sua maggioranza, tra cui il nuovo centrodestra di Alfano? Potete come sempre esprimere le vostre opinioni nella pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì in qualsiasi momento, e poi gli sms durante la diretta al 349 238 6666. Intanto sentiamo che giornata è stata. Politica e riforma elettorale, Berlusconi ricompatta, Forza Italia dice dialoghiamo sull'Italicum, ma niente diktat. Maltempo, la Liguria è ancora pesantemente colpita, ritrovati morti, due dispersi e a Chiavari arriva l'esercito, Galletti dice mai più condoni. Spendere via riforme, l'Unione Europea esprime dubbi anche sulla tempistica e avverte mesi cruciali per valutare l'Italia. Caso Magherini, a processo a Firenze tre carabinieri e quattro volontari della Croce Rossa per la morte del quarantenne durante un arresto. L'accusa è di omicidio colposo. TV, la televisione dei Vescovi invita a Luxuria, poi fa marcia indietro, proteste su Facebook, rischio di malintesi, dice la TV, solo questo è soltanto un rinvio. E poi la sonda Rosetta che atterra sulla cometa, in viaggio da 10 anni nello spazio, studia l'origine dell'universo. Partiamo quindi dalla politica, poiché pare in bilico, vi dicevo, l'accordo per la riforma elettorale e quindi il patto del Nazareno tra Renzi e Berlusconi. Oggi il leader di Forza Italia ha riunito i suoi in un ufficio di presidenza, in un vertice insomma del partito, e ha ricompattato appunto Forza Italia su alcuni elementi votati all'unanimità. La sintesi di questo documento finale è: siamo disposti a dialogare sull'Italicum, ma non accettiamo diktat. Poi ne parleremo, come vi dicevo, con un esponente di Forza Italia. Ma al tempo sono circa 80 i militari dell'esercito che dal primo pomeriggio sono all'opera nella provincia di Genova su richiesta della prefettura per fronteggiare l'emergenza maltempo. In particolare l'esercito sta intervenendo a Chiaveri, Cogorno e Carasco con i mezzi speciali del Genio, idonei al ripristino della viabilità con motopompe, torri di illuminazione campale, e il maltempo ha provocato purtroppo ancora vittime in Liguria, come ci confermerà Andrea Ferro dalla Liguria. Andrea, buonasera. Sì, buonasera Roberta, un'altra giornata di maltempo, ansia e danni è quasi trascorsa, ma l'emergenza non è finita. Mentre vi parlo, la situazione è molto critica nel Savonese, in particolare nella zona di Albenga, dove sono esondati alcuni torrenti, altri stanno tracimando, in particolare mezza Ceriale è sott'acqua. Lo stato di allerta 2 prosegue anche stanotte e domani fino alle 15, e questa volta su tutta la Liguria. Giusto per rendere l'idea di come questa regione sia ormai stremata dagli allarmi per il maltempo, domani sarà il 12° giorno con lo stato di allerta praticamente in un mese, cioè un giorno su 3. Allerta 2 significa domani scuole ancora chiuse, per Genova e molti altri comuni è il terzo giorno consecutivo. Oggi la giornata è stata segnata, come dicevi, da due vittime, marito e moglie 70enni travolti dal crollo della loro casa investita ieri sera da una colata di fango a Levi alle spalle di Chiavari. La procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. A Chiavari, Carasco, in Val Fontanabuona, per tutto il giorno migliaia di persone hanno spalato acqua e fango dai magazzini, dai negozi, pulito la merce, almeno quella che si può ancora recuperare. I danni provocati dalle esondazioni di Entella, Rupinaro e Sturla sono ingenti, ieri ne avevamo dato conto dell'esondazione nel corso del collegamento a quest'ora. Nelle ultime ore la corrente elettrica è tornata un po' ovunque dopo un blackout in alcuni casi durato 20 ore. Frane ovunque, strade interrotte, altre cancellate, soprattutto nella zona dell'entroterra della Val Fontana Buona. Quasi 200 gli sfollati, la Croce Rossa ha allestito un dormitorio a Carasco e chiudo ricordando la notizia con la quale ho aperto, la situazione è molto critica nella zona di Albenga, in particolare a Ceriale, dove stanno esondando alcuni torrenti, insomma l'emergenza non è finita. Purtroppo, grazie Andrea Ferro. E c'è preallarme anche per la piena del fiume Po, per il Ferrarese, il Piacentino, Parmense, Reggiano. Per domani allerta anche nel Lazio, in diverse zone del sud, per le piogge. Il Piemonte in queste ore è sotto osservazione per il livello del Lago Maggiore, ma stasera poi a Effetto Notte sentiremo anche le previsioni per le prossime ore, magari anche per i prossimi giorni. Intanto oggi a Roma si sono svolti gli stati generali contro il dissesto idrogeologico. Investire risorse e coinvolgere i cittadini nella gestione e nella tutela del territorio sono queste le due direttrici entro cui si muove il piano contro il dissesto idrogeologico presentato dal governo. Una spesa di quasi 9 miliardi a disposizione per le opere di messa in sicurezza e per aprire 654 cantieri entro la fine dell'anno. Noi pensiamo di gestire questi cantieri intanto insieme ai cittadini, perché non a caso oggi c'è uno strumento di controllo, di verifica, che è il sito italiasicura.gov. Governo.it, georeferenziato, ognuno clicca sulla sua frana, sul suo intervento, sulla sua opera, sul suo cantiere e controlla insieme a noi le fasi di avanzamento. A spiegarlo il coordinatore della struttura di prevenzione per lo sviluppo delle infrastrutture idriche di Palazzo Chigi, Erasmo D'Angelis. E se nel 2015 altri 659 cantieri sono già pronti ad essere inaugurati, il ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti ricorda che non basta solo stanziare risorse. Non si può più pensare di risolvere il problema del dissesto idrogeologico solo con organizzazione e risorse. È un problema culturale. Il piano nazionale annunciato dal governo prevede anche nuove iniziative legislative in materia di lotta all'abusivismo. Il segnale che lo Stato dà è mai più condoni edilizi. Francesco De Remigis, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E adesso parliamo del rapporto dell'Unione Europea sull'Italia. Bruxelles bacchetta nuovamente il nostro paese per i tanti annunci senza realizzazione. Programma di riforme avviato e ambizioso, ma i progressi restano incerti. La Commissione europea fotografa così l'Italia nel rapporto sugli squilibri macroeconomici. Uno sguardo di parziale sfiducia che riflette il poco credito che l'Europa ormai ci concede. Una frase nel rapporto è rivelatrice. Numerosi pacchetti di riforma che potrebbero segnare un cambio di marcia attendono ancora una piena adozione o decreti attuativi. I risultati rimangono incerti. E se questa osservazione potrebbe offrire una sponda ai progetti legislativi del Premier Matteo Renzi, un'altra sembra invece gettare un grande punto interrogativo sulla copertura delle spese. Una significativa incertezza circonda la spending review, che è vitale per finanziare importanti misure nei prossimi anni. La Commissione si spinge a ipotizzare che la qualità dei tagli alla spesa si sia abbassata, mentre l'implementazione del piano di privatizzazioni appare in ritardo. Disco verde sia al Jobs Act, sia ai primi passi intrapresi per ridurre il peso delle tasse. Bruxelles si chiede anche che fine ha fatto il disegno di legge sulla concorrenza. L'avvertimento più pressante riguarda il debito. È molto elevato e ha un peso grande per l'economia italiana, fonte di vulnerabilità nel contesto attuale di inflazione e crescita bassa, e tiene a freno la crescita. Fino all'ammonimento finale. I progressi dei prossimi mesi nelle riforme saranno cruciali per valutare se l'Italia sta facendo il suo dovere per affrontare gli squilibri. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Intanto una riforma in arrivo c'è, quella del catasto, che però potrebbe costare cara almeno a qualcuno. Il primo mattone è stato posato. Il governo ha dato ufficialmente il via alla riforma del catasto, riattivando le commissioni censuarie, primo passo per la revisione dei meccanismi di valutazione e quindi di tassazione degli immobili. Queste commissioni, formate da rappresentanti delle entrate, degli enti locali, delle associazioni di categoria, oltre che da tecnici professionisti, dovranno definire i nuovi valori da utilizzare per gli estimi catastali, stabilendo il valore medio ordinario di tutti gli immobili, che sarà calcolato non più sul numero dei vani, ma dei metri quadri. L'approvazione del decreto sulle commissioni è solo il primo passo, altri ne seguiranno fino al censimento degli oltre 62 milioni di unità immobiliari, operazione che richiederà circa 5 anni di tempo. L'obiettivo è quello di colpire chi fino ad oggi ha pagato meno per case di maggior prestigio. Il rischio salasso però esiste per tutti, avvertono Federconsumatori e Adusbef, secondo cui l'arrivo delle nuove rendite potrebbe comportare un aggravio di 230-260 euro l'anno per i cittadini. Nel caso di una revisione delle rendite, chiedono dunque le due associazioni di consumatori, dovranno essere di conseguenza adeguate anche le aliquote quote di Tasi e IMU. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso spostiamoci all'estero, parliamo del mistero che riguarda la sorte del capo dell'ISIS al Baghdadi, a 4 giorni dal raid che hanno preso di mira postazioni dell'autoproclamatosi Stato Islamico. In Iraq appare sui social network l'immagine del presunto cadavere del califfo nero postata da un profilo che sarebbe vicino ai jihadisti. Il ministero dell'interno iracheno ha affermato che al-Baghdadi è stato ferito e trasferito in Siria, quindi ancora non si sa nulla con certezza. Poi in Brasile, sapete quante persone vengono uccise in Brasile in un anno? 50.806 omicidi ci sono stati nel 2013, uno ogni 10 minuti, ma la percentuale è in diminuzione rispetto agli anni precedenti, pur mostrando quindi segnali di miglioramento. Il Brasile resta uno dei paesi più violenti e pericolosi al mondo, con una persona ammazzata ogni 10 minuti. Secondo i dati ufficiali diffusi oggi dal Brazilian Forum of Public Safety, l'anno scorso sono state uccise in modo violento in Brasile 50.806 persone, che significa una media di 5,8 persone al giorno in questo paese che conta 102 milioni di residenti. Con la cronaca torniamo in Italia. A Milano c'è stata un'irruzione questo pomeriggio in un circolo del PD mentre era in corso una riunione con il sindacato degli inquilini delle case popolari. Lanciati diversi fumogeni da rappresentanti dei comitati per la casa, già protagonisti delle manifestazioni a Roma, solo ieri il prefetto di Milano aveva annunciato per i prossimi giorni delle operazioni contro le case occupate. A Roma invece la tensione è ancora tutta per il sindaco Marino, è senza fine la vicenda della sua famosa panda rossa e delle multe non pagate. Chi è l'hacker che avrebbe cancellato il permesso del sindaco? Chi si sarebbe introdotto abusivamente nel sistema informatico del Campidoglio? Secondo il senatore del nuovo centrodestra Andrea Augello, è il sindaco stesso. Sarebbe stato lui a manipolare il dossier. Una storia complicata, al limite del surreale, quella che vede coinvolto il primo cittadino della capitale, divenuta oggetto di un'interrogazione parlamentare finita sul tavolo della Procura di Roma. Nel mirino la misteriosa sparizione dai computer del Campidoglio dell'autorizzazione che consente al sindaco di circolare nelle zone del centro storico. Secondo Augello, braccio destro dell'ex sindaco Alemanno, Marino avrebbe circolato senza permesso tra il 24 giugno e il 20 agosto e per questo avrebbe ricevuto 8 multe non pagate perché sospese. Secondo Marino, invece, ci sarebbe stato un attacco informatico teso a rimuovere l'autorizzazione per quel periodo. Nessun hacker, nessuna sparizione. Invece per Augello il permesso compare e ricompare a seconda delle chiavi di ricerca. Insomma, il giallo continua. Intanto Augello annuncia una mozione di sfiducia al sindaco. Marino non commenta mentre circolano voci di possibili sue dimissioni o di quelle del suo capo di gabinetto Luigi Fucito. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ma come andrà a finire questa storia? Intanto parliamo della televisione dei Vescovi, TV 2000, che invita il transgender più famoso d'Italia, Luxuria, per parlare di attualità. Nei giorni in cui Assisi è in corso l'assemblea della CEI, sulla pagina Facebook dell'emittente una valanga di proteste costringe a ripensamento e dalla TV dicono non vogliamo prestarci a strumentalizzazioni, la partecipazione al momento è soltanto rinviata. E parliamo a questo punto anche di musica. It's not time to make a change. Parte dal Forum di Assago a Milano il tour europeo, cui seguirà poi quello americano, del leggendario cantautore londinese Steven Dimitri Gheorghiu, in arte Cat Stevens, diventato poi Yusuf Islam in seguito alla conversione musulmana. Nel Peace Train Late Again Tour convivranno i suoi capolavori come Wild World, Moon Shadow, Peace Train e la bellissima Father and Son, riproposta con successo dal vivo anche all'ultimo Festival di Sanremo. Come pure un mix di brani originali e cover dell'ultimo CD, Tell 'Em I'm Gone, pubblicato a fine ottobre, il terzo disco dal 2006 quando decise di mettere fine al lungo esilio volontario seguito alla conversione. Un ritiro deciso nel 1977 quando, dopo aver rischiato di morire annegato a Malibu, scelse di dedicare a Dio la sua vita. Solo nel 2003 un primo ritorno sul palco per un omaggio a Nelson Mandela. Da allora è iniziato un lento processo che lo ha portato via via al mondo della musica. Per quella di stasera a Milano, che sarà l'unica tappa italiana, saranno molti nostalgici ad applaudire la lunga scaletta che dovrebbe prevedere oltre 30 canzoni. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Una notizia anche dallo spazio, c'è la prima luce verde alla fase cruciale della missione della sonda Rosetta che domani porterà il primo atterraggio su una cometa dal centro di controllo dell'Agenzia Spaziale Europea. A Darmstadt tutti i dati utili a determinare la posizione esatta della sonda rispetto alla cometa sono quelli che erano attesi, quindi il go alla manovra, quindi il via libera. Per il calcio, Massimo Mezzaroma, ex presidente del Siena Calcio, dichiarato fallito l'estate scorsa, è stato iscritto nel registro degli indagati. Secondo quanto si apprende, il reato sarebbe accesso abusivo il credito e ci sono state perquisizioni della Guardia di Finanza in Toscana, Lazio e Calabria. E poi per chiudere la Coppa d'Africa del calcio che è nel caos dopo il rifiuto del Marocco di organizzare il torneo spinto dai timori per la diffusione del virus dell'Ebola, la Confederazione Africana di Calcio ha deciso di escludere la nazionale marocchina dalla manifestazione che dovrebbe aver luogo dal 17 gennaio all'8 febbraio prossimi, però bisogna ancora decidere quale sarà il paese che ospiterà la Coppa d'Africa di calcio. A questo punto vi lascio la pagina Facebook di Effetto Note se volete fare i vostri commenti su che cosa preferireste, che Renzi vada avanti col patto del Nazareno per fare le riforme o che guardi verso il nuovo centrodestra e la sua maggioranza. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Eccoci insieme, stavo guardando i vostri messaggi, ringrazio per esempio Riccardo e poi dice una Clotilde, dice prima che andasse via, primo che andasse via vorrebbe, non si capisce chi Clotilde, se Renzi, Berlusconi, ma questa è una mia speranza, ma almeno mollasse Berlusconi a Renzi, dice il nuovo centrodestra, ascoltasse la minoranza PD e cercasse un serio confronto col Movimento 5 Stelle. Ieri abbiamo parlato proprio con un esponente del Movimento 5 Stelle su questo, ma vediamo un attimo di capire invece qual è l'analisi politica in questo momento di Crozza sulla 7. Presidente, con tutto il rispetto, lei ha detto che se ne sarebbe andato dopo la legge elettorale, dopo le riforme costituzionali e dopo il risanamento economico. Ecco, sommessamente, umilmente, Presidente, guardi che qui non è stato fatto un cazzo. Ecco, Presidente, dicono, mi scusi, dicono che lei sia stanco, la capisco, è da così tanto tempo al Colle che quando è arrivato era ancora a pianura, è così stanco che i moniti non li lancia nemmeno più, lo so, li fa scivolare a terra come le bocce, lo capisco. Ci ha dato, Presidente, gli anni migliori della sua vita, 60 anni di onorata carriera politica, che tra l'altro se ritira il TFR facciamo la fine della Grecia. Si rende conto che la sua liquidazione è mezzo PIL del 2014, Presidente? Non è l'Europa che le chiede di restare, è più l'INPS. Presidente, la prego, ci ripensi. Con tutto quello che ha già sopportato, e ci faccia ancora un decennio. Questo è l'appello di Crozza, insomma, Napolitano. Sapete, ieri, tra ieri e l'altro ieri, la notizia che è rotto sulla scena politica è che perché Napolitano dovrebbe lasciare a fine dicembre, però lui non ha smentito, non ha confermato, in fondo ha detto, in realtà sono cose che si dicono da tempo, non c'è nessuno scoop, nessuno imprevisto, se non appunto questo gossip, queste polemiche inutili. Comunque, questa cosa, la prima frase che ha detto Crozza, è abbastanza legata a quello di cui parleremo tra poco, però prima vi riassumo brevemente le notizie se non le avete sentite prima. Patto Nazareno e gelo tra Renzi e Berlusconi sull'Italicum. Ora decidiamo, dice Renzi, no alle modifiche, invece dice Berlusconi con Forza Italia. L'Unione Europea e l'Italia, risultati incerti per riforme e spending review. E con la manovra c'è un rischio aumento benzina di 8 centesimi al litro nel 2015. Piove ancora in Liguria, altri due morti sotto una frana. Il ministro Galletti dice mai più condoni edilizi, sono un tentato omicidio. Assalto alla riunione sulla casa a Milano. Distrutta una sede del PD, una ventina di incappucciati irrompono nell'incontro del Sunia. Caso Magherini, il PM chiede giudizio per carabinieri e sanitari, cioè il quarantenne morì Magherini durante l'arresto lo scorso marzo all'accusa di omicidio colposo. E poi abbiamo sentito che la sonda Rosetta atterra sulla cometa, studierà l'origine dell'universo. Ancora Salvatore Padula, vice direttore del Sole 24 Ore, non chiederò qual è l'origine dell'universo. Buonasera Chicco. Buonasera, grazie. Però parliamo anche di una questione, non dico così complessa, ma insomma il rapporto dell'Unione Europea sugli squilibri macroeconomici che TAC prende di mira l'Italia, perché dice qui, dice un po' come Crozza, l'avrei sentito, qui ancora non è stato fatto un cavolo, ecco, e un po' dice questo l'Unione Europea. È un po' più diplomatica, dice anche sulla tempistica, qui non si capisce, anche la spending review, eccetera, eccetera. Sì, però dicono insomma sostanzialmente questo, no? A dire il vero, dicono insomma che le riforme sono state avviate, alcune sono anche state approvate, però i risultati sono incerti sia perché molto spesso non basta, e lo sappiamo, non basta approvare una riforma affinché la riforma funzioni, perché molto spesso le riforme hanno bisogno di essere attuate. No, noi, tu forse te lo ricordi, noi qui al Sole 24 Ore ogni mese facciamo il monitoraggio di quante norme di riforma sono state poi concretamente attuate dal governo, e io allora che sapevo che tu mi avresti fatto questa domanda, sono andato a guardarmi l'ultima rilevazione che abbiamo fatto e che risale al 2 novembre, quindi pochi giorni fa, e al Sole 24 Ore risulta che più della metà delle riforme attuate, diciamo, dal governo Monti in poi, dal 2011 in poi, più della metà non è ancora stata attuata, non è completata, quindi oggi l'Unione Europea, Bruxelles, ci ricorda, guardate che siete bravi, a volte le cose le fate, le riforme le approvate, però approvarle non è sufficiente, dovete essere più bravi e attuarle, no, renderle operative. La stessa obiezione ce la fanno sulla spending review, perché anche lì, cioè quindi diciamo sulla revisione della spesa, sui tagli eccetera, perché ci dicono attenzione, perché voi nelle vostre leggi finanziarie, nei vostri provvedimenti indicate enormità di tagli, no? Tanti tagli, tagliamo di qui, tagliamo di là, 10 miliardi, però poi li fate veramente questi tagli? Insomma, loro se lo chiedono, noi sappiamo che spesso i tagli non vengono poi in realtà fatti. No. Mi pare che fosse successo anche qualcosa relativamente in questi giorni alle pensioni d'oro, che fosse saltato un tetto a proposito di tagli, di risparmi. Sì, è un pare che sia una piccola svista all'interno di un comma di del disegno di legge di stabilità. Vedremo se verrà corretto nei prossimi giorni. Però volevo aggiungere una cosa, sì, che forse per noi è positiva, cioè che questa fotografia che oggi la Commissione europea restituisce dell'Italia, che si chiama il rapporto sugli squilibri macroeconomici dei paesi, tra cui l'Italia, è una fotografia un pochino datata, perché non tiene conto, diciamo, di tutte le ultimissime cose, quindi la nota di aggiornamento al DEF, il documento di economia e finanza, e soprattutto la legge di stabilità che il Parlamento sta diciamo discutendo in questi giorni. Quindi diciamo è un giudizio di nuovo severo, ma non neanche così tanto, però appunto non troppo aggiornato, perché non tiene conto di tutto quello che poi è successo e che sta accadendo in Parlamento in questi giorni. Per chiudere, caro Chicco Padula, è vero che, visto che questo è un argomento cui siamo tutti sensibili, che c'è il rischio aumento della benzina di 8 centesimi al litro nel 2015? Posso dare anche un'ulteriore brutta notizia, non solo della benzina. Facciamo una raccolta, visto che siamo qui in tema. Esatto, ma anche ad esempio delle sigarette, perché quella forse è una buona notizia, ce l'avranno con me i fumatori. È una buona notizia, per altri purtroppo non lo è, ma soprattutto sono, diciamo, misure che fanno venire in mente interventi che tutti speravano fossero dimenticati, no? Ti ricordi tanti anni fa, quando insomma mancavano un po' di soldi, che cosa si faceva? Si aumentava la benzina, le sigarette e i bolli, i francobolli, no? E purtroppo insomma sono passati tanti anni, e mi sembra che però sempre lì andiamo a raschiare il barile. Già, grazie Chicco Padula, buon lavoro, buona grazie. Chiusura del Sole 24 Ore. E adesso chiudo questa prima parte, leggevo questo messaggio di Enzo da Varese al 349-238-6666, dice: ciao Roberta, Renzi può andare a destra o a sinistra, basta che abbia il pass in regola, quindi stiamo parlando di mobilità, insomma, nel traffico. Elias dice: Roberta, si deve andare avanti senza Berlusca o con Berlusca, quindi andare comunque avanti. Crescenzo: deve andare avanti da solo Renzi senza Berlusconi, così diventa più credibile. Giancarlo dice: comunque vada, ormai non ci riprenderemo mai più. Molto molto pessimista. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Riecco Roberta Giordano, sempre con voi. Riecco, dicevo, le notizie, in particolare gli approfondimenti adesso anche con gli altri ospiti, ma una notizia è arrivata in questi istanti di un fatto di cronaca nera avvenuto a Vieste, in provincia di Foggia, sul Gargano, insomma. Il titolare di una rivendita all'ingrosso di bevande, Mario Nardella, di 40 anni, è stato ucciso a coltellate durante una rapina compiuta questa sera nel suo negozio a Vieste. L'aggressore è fuggito subito dopo, ma è stato inseguito e arrestato dagli agenti del commissariato di Manfredonia e dalla polizia stradale. Poi le altre notizie. Politica, riforma elettorale, Berlusconi compatta Forza Italia, dice: dialoghiamo sull'Italicum ma niente diktat. E poi il maltempo, abbiamo sentito che prosegue nella Liguria, ancora pesantemente colpita, ritrovati morti due persone che erano disperse, a Chiavari arriva l'esercito, il ministro Galletti dice: mai più condoni. Spending review, riforme, ci sono i dubbi dell'Unione Europea, soprattutto sulla tempistica, e avverte: sono mesi cruciali questi per valutare l'Italia. Caso Magherini, a processo a Firenze tre carabinieri e quattro volontari della Croce Rossa per la morte del quarantenne durante un arresto, l'accusa è di omicidio colposo. E poi la sonda Rosetta che atterra su una cometa, da lì studierà l'origine dell'universo. Quindi adesso parliamo del rapporto tra Renzi e Berlusconi in questo periodo piuttosto teso, ne abbiamo parlato diffusamente in questi giorni, no? Si va dall'incontro della scorsa settimana di più di due ore tra Renzi e Berlusconi, in cui dovevano discutere di riforma elettorale, ma pare che non abbia avuto questo incontro un esito positivo, forse si dice soprattutto perché Berlusconi sente la pressione di Renzi per andare velocemente alla riforma della legge e poi passare alle urne. Alla frase di Renzi poi, vi ricordate alla fine della scorsa settimana, che aveva detto il patto del Nazareno scricchiola, poi l'ultimatum dato da Renzi a Berlusconi che scadeva ieri, per dirgli insomma: allora questa riforma elettorale si fa o non si fa, sei d'accordo oppure no? Ma Berlusconi diciamo che ha glissato su questo ultimatum, oggi ha riunito l'ufficio di presidenza, quindi in vertice insomma del partito. Ma sentiamo cosa ha detto Brunetta di Forza Italia oggi prima dell'ufficio di presidenza relativamente alla tenuta dell'accordo sulle riforme, appunto stipulato il patto del Nazareno tra Renzi e Berlusconi. Stando alle risultanze delle agenzie, abbiamo visto che Renzi si è messo d'accordo con la sua maggioranza per buttare via il testo dell'Italicum approvato alla Camera nel mese di marzo e proporre un altro testo. Legittimo, ma questo non è il patto del Nazareno. Il patto del Nazareno prevedeva un accordo tra il Partito Democratico, Renzi, e Forza Italia, Berlusconi, su un contenuto che appunto ha visto la luce alla Camera nel lontano mese di marzo, e prevedeva anche il patto del Nazareno che qualsiasi cambiamento doveva essere concordato. E poi qual è stato oggi in sintesi l'esito dell'ufficio di presidenza, del vertice di Forza Italia? No ai diktat, sì al confronto per la governabilità. Allora sentiamo cosa ha detto il consigliere politico di Berlusconi Toti. Il diktat di Renzi non sono ricevibili, l'abbiamo detto, ma questo non vuol dire, visto che non riteniamo sia un diktat, e al momento sento parlare di varie proposte, abbiamo sentito varie proposte sul tavolo, abbiamo letto come tutti voi notizie di riunioni che parlavano di legge elettorale, io penso che nelle prossime ore gli stessi contraenti del patto del Nazareno ci faremo vivi, si faranno vivi per capire quali modifiche sono state proposte, in quali termini sono affrontabili e negoziabili, tutto qua. Tra l'altro questa vertice oggi ha fatto ritrovare l'unità anche con Fitto, che era quello che doveva essere il delfino di Berlusconi, poi dissidente, poi invece oggi si è detto soddisfatto, insomma Forza Italia è ricompattata, chiedo conferma. Se così all'onorevole Francesco Paolo Sisto di Forza Italia, con cui ieri, buonasera Sisto, ci siamo sentiti brevemente, ma volevamo capire oggi soprattutto cosa succedeva dopo questo vertice, cosa succede. Ma io direi eureka, nel senso che il partito è riconosciuto, c'è stata comunque, io non direi un riavvicinamento perché non c'è mai stata neanche un'ipotesi di presa di distanza. Noi dicevamo e diciamo le stesse cose che dice Berlusconi, siamo fedeli e vicini al nostro presidente. Credo che il tentativo di recuperare un po' di territorio e di rilanciare Forza Italia in una politica forte sul territorio, credo che sia il minimo sindacale per un partito che voglia essere antagonista di Renzi, ma maturo nel percorso delle riforme. Le due cose possono stare tranquillamente insieme, senza nessuna rotta di collisione, neanche ipotetica, collaborativi ma critici, fermi nella politica e soprattutto coerenti con il DNA di Forza Italia. Però, onorevole Sisto, a voi mi sa, Berlusconi non è andato molto giù il vertice di maggioranza ieri col nuovo centrodestra, con le modifiche che sarebbero in corso per la riforma elettorale. E, secondo lei, Renzi, prima, cioè, c'è stato questo cambio, prima discuteva e concordava le cose, le riforme con Berlusconi e poi le mostrava, le sottoponeva al nuovo centrodestra. Adesso sembra che faccia il contrario, cioè ieri si è accordato su alcuni elementi, per esempio la soglia di sbarramento al 3%, il premio alla lista eccetera, col nuovo centrodestra, i piccoli partiti, Scelta Civica eccetera eccetera. Cioè è un cambio proprio di strategia o è solo così per spingere Renzi, per spingere Berlusconi a dire di sì? Renzi è bravo, solo che non bisogna inseguirlo, non seguire né lui né Salvini. Bisogna che Forza Italia riaffermi se stessa e quindi prenda un po' le distanze da questo Renzi dipendenza o da questo Salvini dipendenza dall'altra parte. Noi dobbiamo affermare quelli che sono stati sempre i nostri valori: libertà, garanzia, un'impresa più libera, un'impresa capace di non avere le tagliole di Equitalia e di qualche reato un po' invasivo che questo Parlamento sta cercando di coniare. E se poi Renzi vuole giocare a rimpiattino con le riforme, è un problema suo. Noi saremo sempre collaborativi, il patto del Nazareno per noi regge, ma regge nella misura in cui si è sempre detto, come lo stesso Renzi ha detto, che le modifiche si concordano insieme, come abbiamo fatto per l'Italicum. Quindi è uno schema semplicissimo, cercare di come posso dire, giocare un po' al di qua, al di là della linea del fallo laterale, non mi sembra che possa confondere l'idea di un partito solido come Forza Italia. Anche se bisogna dire che Renzi, no, da decisionista, da quello che va veloce sin dall'inizio, ha fatto capire che non è più disposto a rinviare e lo dice adesso per voce, lo sentiamo, della ministra Boschi. Noi abbiamo chiesto a Forza Italia ovviamente un impegno a trovare un accordo in tempi rapidi. Oggi al Senato il PD ha chiesto di calendarizzare la legge elettorale, quindi non possiamo accettare ulteriori rinvii e ritardi, ma accogliamo con favore la possibilità di un confronto nel merito, partendo dal principio che la governabilità è un valore e non possiamo rinunciarci nella legge elettorale. Sisto, cos'è che vi dà più fastidio in queste modifiche che Renzi sta facendo con anche il nuovo centrodestra, la riforma elettorale? Dico la verità, quello che ha detto il ministro Boschi mi sembra già un passo avanti rispetto a quello che ha detto 36 ore fa. No, quando ha detto che entro domani per forza, se no, se non c'è questa risposta, noi facciamo il patto con i grillini. Io dico che il patto con i grillini è un po' come il cobra e la mangusta, ognuno pensa di poter vincere la partita, poi c'è qualcuno che soccombe, quindi vedo un po' difficile questo patto PD-grillini con queste caratteristiche. D'altronde i grillini hanno a loro volta preso le distanze. Non ci dà fastidio nessuna trattativa che il PD possa avere con chi che sia, ci interessa che la trattativa con noi sia chiara, netta, metodologicamente corretta. Poi Renzi lo sa benissimo, queste cose le può fare soltanto con la collaborazione attiva ma critica di Forza Italia. Da solo credo che i problemi sono dietro l'angolo, perché poi i partiti piccoli, che sono il contrario della governabilità, la ministra Boschi ha parlato di mantra della governabilità, che io condivido, indubbiamente l'Italicum ha senso se garantisce la governabilità. È chiaro che i partiti piccoli invece si pongono in antitesi rispetto a questo criterio di governabilità, perché tendono a sparigliare e a diventare con piccoli numeri gli arbitri della situazione. Alfano ha detto, leader del nuovo centrodestra, Silvio, fermi il rancore, noi siamo pronti a ricostruire il nuovo centro, di nuovo il centrodestra, ma sentiamo anche questo passaggio. Abbiamo però raggiunto ieri un accordo che per noi è un accordo serio, solido, perché unisce governabilità e rappresentanza, cioè dice: la sera del voto, se tu candidato hai preso il 40% dei voti, ti diamo 15 punti di regalo e prendi il 55% dei seggi. poi, chiuso il capitolo governabilità, c'è quello della rappresentanza, cioè se si vince col 40%, c'è il 60% che è fuori. E allora quel 60% deve essere rappresentato in Parlamento, anche perché con la chiusura del Senato tutto questo 60% del popolo italiano deve entrare in quella parte residua destinata a chi non ha vinto nella Camera dei Deputati. Allora mettere le soglie è un modo per dire a milioni di italiani: voi non meritate la rappresentanza, anche se non disturbate il manovratore, il quale già ha un premio di maggioranza che gli consente di governare e manovrare. La convince questo ragionamento di Alfano? Ma guardi, per carità, ognuno tira l'acqua al proprio mulino ed è giusto, si può anche discutere. Credo che con il nuovo centrodestra Forza Italia debba in qualche maniera discutere. E certo che se ci fosse il premio di partito e non di coalizione, come nell'Italicum licenziato dalla Camera, tutto questo accorpamento mi sembra un po' difficile. Avremo anche qui una miriade di piccoli partiti, il che è inutile nascondercelo, fa pugni con la originaria stesura dell'Italicum. Sono due logiche diverse, due diverse filosofie. Ci era stato detto che il patto del Nazareno era su una governabilità per coalizioni, adesso Renzi parla di premio di maggioranza per i partiti e di abbassamento delle soglie. È come se passassimo dalla salsa al tango, ecco l'impressione che sono sempre due balli, ma mi sembra fortemente diversi per impostazione, per tempo, per ritmo e probabilmente anche per ballerini. Onorevole Sisto, è vero che Berlusconi durante il vertice di oggi ha detto: presenteremo un emendamento alla riforma della giustizia che riguarda la legge Severino e la sua applicazione retroattiva, a quel punto vediamo cosa fa il PD, come vota e poi decideremo il da farsi? È una specie di posta in gioco, di ricatto? Ma, guardi, io sono stato tra i primi, forse il primo, a criticare l'applicazione retroattiva della legge Severino, perché è come la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ci insegna: ogni normativa di carattere sanzionatorio a matrice penale deve seguire il principio della non retroattività. Si è trattato di una barbarie applicata ciecamente, facendo finta di non sapere. Una volta tanto uso io questa espressione, no? Di fare finta di non sapere, l'hanno usata tanti magistrati nelle sentenze. Ecco, è un Senato che ha fatto finta di non sapere che la legge Severino doveva non essere retroattiva. Mi sembra che il caso De Magistris, guarda caso accaduto nei confronti di un ex magistrato, e che deve farlo ovviamente pensare, possa essere però, come diciamo noi dalle mie parti, sotto un guasto ci può essere un aggiusto, possa essere un buon punto di partenza per affermare un principio ovvio e che soltanto il Senato per Berlusconi non ha voluto vedere in modo clamoroso. Ma detto adesso, onorevole Sisto, può essere una specie di posto di scambio, di posto, non so, di ricatto, non so. Guardi, la lettura mediatica delle situazioni è capace di tutto. Io dico soltanto che è doveroso restituire ad una norma a carattere sanzionatorio, a matrice penale, la sua natura di non retroattività. Il contrario è soltanto un cattivo uso normativo per ragioni politiche. Sì, ultimissima domanda. Domani Prego. C'è questo pranzo tra Renzi e Berlusconi o digiunano, ognuno mangia per conto suo? Che fanno? Ma guardi, io credo che manterranno comunque la linea, anche se pranzano insieme. Quando dico mantenere la linea, dico che Berlusconi manterrà la nostra linea. Ah, pensavo forma fisica, ecco. Guardi, ho usato volutamente una espressione che volesse dire una cosa all'altra. Tutte e due le cose, quindi, ma si manterranno ben in forma fisicamente e manterranno la linea, la direzione. Manterranno ferma la linea che oggi è emersa in ufficio di presidenza. Bene, per forza. La ringrazio, onorevole Francesco Paolo Sisto. Grazie, buona serata. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Bene, adesso cambiamo argomenti, tra poco vi ricordo le notizie, anche l'ultima che è arrivata di questo fatto di cronaca a Vieste, dove un negoziante è stato ucciso a coltellate, ma l'omicida è stato poi raggiunto dai carabinieri e dalla polizia stradale. E poi le altre notizie. Il patto del Nazareno è gelo tra Renzi e Berlusconi sull'Italicum, anche se sentivamo prima Sisto che diceva in realtà, insomma, la linea continua, il rapporto continua, è così il patto del Nazareno. L'Unione Europea bacchetta l'Italia, risultati incerti per le riforme e spending review. Con la manovra ci potrebbe essere un rischio di aumento della benzina a 8 centesimi al litro nel 2015. Ancora la Liguria sotto la pioggia, altri due morti sotto una frana. Il ministro Galletti dice: mai più condoni edilizi perché sono un tentato omicidio. E poi il caso Magherini, con il PM che rinvia giudizio carabinieri e sanitari per il quarantenne che morì durante l'arresto a marzo, cioè l'accusa di omicidio colposo, e poi la TV dei Vescovi che invita Luxuria, TV 2000, poi fa marcia indietro, proteste su Facebook e la TV dice soltanto un rinvio. Europa 24 notte. Anche per quanto riguarda lo spazio europeo parliamo di maltempo, le chiamano bombe d'acqua, no? L'avete sentito spesso questa espressione che riguarda i cambiamenti climatici, una vicenda con la quale facciamo ormai insomma, i conti quasi quotidianamente, come dimostra in questo periodo naturalmente l'ondata di maltempo che ha violentemente colpito Liguria e Toscana, ma l'Europa è attrezzata per far fronte a tutto questo e come? Nel luglio del 2011 Copenaghen fu colpita da una violenta bomba d'acqua. La città allagata con più di 1.400.000 euro di danni. Superata l'emergenza, la municipalità danese, sempre in prima linea nel rispetto dell'ambiente, approvò il piano di adattamento ai cambiamenti climatici, che concretamente entrò in vigore 2 anni dopo. Poi fu la volta di Londra, Berlino, Barcellona. Sono molte oggi le realtà che hanno provveduto a creare una strategia di resistenza e gestione del rischio. In generale si lavora su questioni pratiche, costruzioni a barriera, edifici realizzati sopra il livello del mare, aumento della capacità dei sistemi fognari, sistemi di allarme in caso di pioggia, scantinati, impermeabilizzati, immagazzinamento della pioggia per minimizzare il danno e soprattutto il ricorso a sistemi alternativi per il condizionamento dell'aria. Tutto questo e quanto viene fatto per singole città. Ma l'Europa cosa sta facendo? Lo abbiamo chiesto a Evelina Jalenkowska, portavoce della Commissione. L'Unione Europea ha instaurato la protezione civile europea. Questo è un sistema vero e proprio di protezione civile dell'Unione Europea che non sostituisce i sistemi nazionali, ma che coopera, quindi dà il sostegno su richiesta dello Stato colpito. Il centro è attivo, operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, può avere immediato aiuto a livello europeo. Diciamo che la Commissione europea, che è quella che ha l'iniziativa legislativa, ha messo in atto da anni ormai una molto coerente e molto ambiziosa politica climatica, perché tutti questi fenomeni che osserviamo ormai è pacifico che sono dovuti anche all'uso insostenibile che facciamo delle nostre risorse naturali. Quindi la Commissione europea ha messo in atto una vera e propria politica climatica. Qual è la cifra che viene stanziata dall'Unione europea per questo genere di lavori? Diciamo che mediamente si può dire che circa 30% di tutte le risorse disponibili attraverso tutti i programmi, quindi sia diretti che indiretti, saranno legati in modo diretto o indiretto alle azioni ambientali e quindi alla lotta contro il cambiamento climatico. In Italia, nonostante le avvisaglie dei cambiamenti climatici siano sempre più frequenti e nonostante dal 2000 al 2014 ci siano state 27 alluvioni in 14 anni con decine di morti, siamo ancora ai primi passi, frutto di iniziative soprattutto volontaristiche. Ad oggi, nel vecchio continente, sono 18 i paesi europei che hanno adottato una strategia di adattamento, così come prevede anche la Commissione europea. Ma la Danimarca è l'unico paese dotato di un piano che riguarda soprattutto i nubifragi. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. E restiamo su questo tema, visto appunto quello che sta succedendo in queste ore da diversi giorni. Ne parliamo con Luca Mercalli, buonasera. Buonasera a tutti voi. È notissimo meteorologo, climatologo, presidente della Società Meteorologica Italiana, fa parte del Climate Broadcaster Network Europe, un gruppo di presentatori meteo televisivi voluto addirittura dalla comunità europea per diffondere la corretta informazione sul clima. Quindi Mercalli, la corretta informazione sul clima, sentiva dei cambiamenti climatici, no? Del servizio precedente di cui si parla, se l'Unione Europea è sufficientemente attrezzata. L'Italia, con quello che sta succedendo, è un continuo, se vogliamo così dire, mea culpa, però oggi anche il ministro Galletti, ministro dell'Ambiente, ha detto basta con i condoni edilizi, mai più, perché sono un tentato omicidio. Sentiamo anche un altro passaggio di Galletti. Per troppo tempo in questo paese non si sono fatte opere adeguate sul dissesto idrogeologico. Io credo, Erasmo, che noi oggi, come è scritto nel titolo di questa sessione, dobbiamo voltare pagina. E come facciamo a voltare pagina? Lo facciamo mettendo al centro dell'azione di governo il contrasto al dissesto idrogeologico. Che cosa vuole dire questo? Vuole dire, e sono d'accordo con quanto diceva prima il sottosegretario Del Rio, non è tanto un problema di risorse, è un problema di spendere bene e subito le risorse che già ci sono e poi trovarne delle nuove. Tra l'altro Galletti ha detto che il governo è pronto a mettere a disposizione 7 miliardi in 7 anni per un piano di prevenzione per la tutela del territorio. L'ho fatto sentire questi passaggi, Mercalli, perché so che lei è molto sensibile anche a una vita più sostenibile, con i libri che ha scritto, con la vita che fa coerentemente, no? Un bassissimo impatto ambientale. Ma quali possono essere le previsioni adesso, da ora ai prossimi giorni, alle prossime ore? Allora sì, distinguiamo i vari settori, certo, perché qui ci sono tanti livelli di riflessione. Primo, giustamente, l'attualità e la cronaca di questi giorni, nonché le previsioni meteorologiche. Domani è ancora una giornata a rischio, ci sono ancora piogge intense su tutta l'area prealpina, ci sono i grandi laghi prealpini che stanno esondando, in particolare il Lago Maggiore, quindi domani c'è ancora rischio di aumento del livello del Lago Maggiore, e poi ancora questi nubifragi possibili tra area Liguria e la Toscana. E poi c'è una tregua giovedì e ripresa di piogge a partire da venerdì. Ma l'autunno mediterraneo, che è relativamente frequente, si comporta in questo modo. Ricordiamoci che le grandi alluvioni storiche, come quella di Firenze, sono proprio tipiche del mese di novembre. Ed è qui che allora ci spostiamo dall'attualità di fatti meteorologici singoli alla loro visione invece sul lungo periodo, per capire quanto ci sia dentro questi episodi di cambiamento climatico. Difficilissimo giudicare, perché i cambiamenti climatici ci sono, li cogliamo soprattutto con degli indicatori che sono inequivocabili, come l'aumento della temperatura. Su questo non abbiamo alcun dubbio. Fa più caldo sul pianeta, un grado in più nell'ultimo secolo, e ci abbiamo proprio in questi mesi a chiudere probabilmente il 2014 come uno degli anni più caldi della storia della Terra, almeno insomma da quando abbiamo le misure. Per quanto riguarda invece le alluvioni, è un problema giudicare quanto queste siano frutto del cambiamento climatico e quanto della normale dinamica di questi fenomeni che fanno parte della storia del nostro paese, perché gli effetti, come abbiamo sentito prima, sono intricati. Giustamente il ministro ha detto dobbiamo partire in manutenzione del territorio contro il dissesto e bloccare le nuove edificazioni, soprattutto infatti, se in area. Luca Mercalli, di questo torneremo a parlare sicuramente, perché è una questione ampia che va molto approfondita. Intanto la ringrazio, sento che la sigla che mi stanno per sfumare, ci risentiremo presto, la ringrazio intanto noi tra poco.